e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora, stiamo bene, mi pare di sì. Come il mi tempo, trovi? Ti trovo sempre in grandissima forma. Un po' magretta. Il tempo grigio non ci mette paura. Ma perché tu fai mille cose, ristrutturi, riorganizzi. Ieri sono andata, te l'ho detto, delle panettiere. Sono andata, erano le 7:15, sono entrata in una panetteria. Ho detto, mi dà del pane integrale? Questa signora, molto gentile, burrosa dall'altra parte, mi ha detto... Ma perché mangia il pane integrale? Lo lasci mangiare a me che devo dimagrire. Io lo mangio per dimagrire. E allora mi veniva in mente, ho iniziato a dire, ma no, perché l'integrale? Poi ho detto, Nico, hai fatto la lezione ma specialesca. Fermati. Dico, ma fermati. Allora ho detto, vabbè, me hai ne dia anche straordinarie un altro di grano duro. Va bene, comunque benissimo. Li ho portati tutti e due, mi sei venuto in mente tu, che mangi solo pane integrale. Ma sì, neanche tanto, come tu sai, perché io devo andare, devo limitare un po' l'uso di lieviti e per un po' di problemi. Detto questo, sì, comunque a me piace come gusto. Anche a me. Mi piace comunque. Anche quando la giornata di borsa è positiva. Milano guadagna lo 0,36%. Ci sono tante trimestrali, ma direi che non alzo il velo sui temi finanziari perché avremo modo di farlo oggi e giovedì durante la nostra scuola di risparmio a partire dalle 11:20. Oggi torna Monica Defend di Pioneer. E invece dopo la scuola, prima della scuola di risparmio, scuola di genitori. Genitori, lo diciamo tante volte, non si nasce, si diventa, si impara così a essere una mamma e un papà strada facendo. E i figli, direi fin da piccoli, si rivelano degli allenatori, oggi dicono coach, straordinari. Allora, se siete genitori con figli piccoli o grandi che stanno crescendo, se invece non avete figli ma volete ricordare, ciascuno di noi è stato un figlio, le sfide che avete affrontato insieme ai vostri genitori, 800 24 00 24, è tornato in studio con noi e potete vederlo perché siamo in diretta Facebook. Sì. Alberto Pellai, medico e psicoterapeuta, sempre più spesso qui ai nostri microfoni in una delle sue vesti preferite, quelle dello scrittore. Ciao Alberto. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, buongiorno a tutti. Che bello essere qui, eh? Lo so, perché tu comunque porti sempre uno tsunami quando vieni, perché non ci intitola solo i libri, vero? Che ormai è veramente un libro che sta, insomma, di grande successo, che sta vendendo direi in tutto il mondo. È uno tsunami, così è stato il nostro uno tsunami vero, l'età dello tsunami. Pensa che lo tradurranno anche in Cina e quindi mi incredibile. Hanno gli stessi problemi di qua, guarda, me lo chiedo anch'io perché so veramente pochissimo del metodo educativo esatto, sì, c'è poco che si può leggere e quindi sono davvero curioso di questa contaminazione. Dovrei fare un po' inviato in Cina. Chissà come diranno Alberto Pellai le mamme cinesi. Alberto? Le L ne ha a sufficienza. Quindi nel cognome. Esatto. Allora, tra l'altro, non sappiamo le mamme e i papà cinesi che come vivano la loro sfida con i figli, ma è proprio fresca una ricerca che vogliamo così raccontare a chi ci sta seguendo, che evidenzia quanto il ruolo del genitore sia cambiato, soprattutto negli ultimi anni. Dai genitori ci si aspetta sempre di più coinvolgimento e attenzione verso i figli, più cose da fare, da tenere sotto controllo, da proporre, e anche il tempo che manca sempre, ma un tempo di qualità da dedicare ai ragazzi. Fatto sta, l'Università Cattolica di Lovanio ha fatto questa ricerca, che anche i genitori si stressano, si esauriscono, tanto che si parla non solo più di burnout legato al lavoro, ma anche alla famiglia. Quindi ne parleremo oggi con Alberto. Che cosa ti sembra? Come leggi tu questa ricerca, Alberto? Che ci sia dentro una verità grandissima. Effettivamente anche dallo psicoterapeuta una delle frasi più frequenti che dicono le mamme e i papà è: dottore, che fatica! Io non mi sarei mai aspettato che essere genitori si sarebbe rivelato così impegnativo, e credo che sia perché vogliamo essere buoni genitori, a volte ottimi genitori, a volte i migliori genitori in assoluto, e cominciamo a riempirci di ansie rispetto a non fare mai un errore. Invece dovremmo accontentarci di essere genitori sufficientemente buoni. Allora, grandi e piccole sfide, questo di cui parliamo oggi insieme ad Alberto, 800 24 00 24, qual è la sfida più grande che vi siete trovati ad affrontare, l'avete in pratica scelta o è la vita che ve l'ha fatta scegliere? E soprattutto come avete reagito? Naturalmente se state attraversando un momento, direi particolarmente più che critico, sfidante, noi siamo qua, potete anche scriverci al 349-238-6666 e iniziamo Alberto a raccontare quali sono le piccole grandi sfide su cui prendi per mano i genitori e poi spiegarci quali tra queste secondo te è più sfidante per le mamme e i papà del terzo millennio. Ma direi che i genitori vogliono adesso essere davvero aiutati a fare tutto giusto e ad avere dei figli che spesso per loro devono essere straordinari. E invece credo che dobbiamo, la sfida più grande in questo momento è proprio imparare a integrare la propria imperfezione dentro una relazione con i propri figli, dove sentiamo che la cosa che conta non è quello che sanno fare, milioni di corsi, eccetera, ma è proprio il saper essere, riuscire a conquistare uno spazio dove ci sentiamo tranquilli, sereni, ecco, non stressati, mettere anche tanto piacere dentro alla relazione con un figlio e non solo tanto dovere, questa cosa di dover essere sempre al posto giusto, sempre al momento giusto, sempre fare la cosa giusta. È chiaro, vogliamo dare il meglio ai nostri figli, ma sempre dentro una relazione dove lo spazio del piacere di stare con te è più importante del devo fare cose per te. E poi comunque tutto passa, Alberto, cioè anche le situazioni che sembrano più complicate, sì, quelle più sfidanti, quelle dici ma allora è cambiato tutto, mio figlio non lo riconosco, non siamo più gradi, improvvisamente un po' come è nato il problema, perché all'improvviso i figli sembrano diversi da come li abbiamo lasciati la sera prima, all'improvviso poi ritroviamo questo ragazzo, ritroviamo la nostra figlia, forse un pochino più forte, un pochino più consapevole, e se le abbiamo attraversate insieme il legame si rafforza, sì, poi un po' questo, come nelle amicizie. Certo, e poi un po' questo è tipico soprattutto con i preadolescenti, no? I genitori vedono queste sfuriate incredibili, sembra nel pieno della crisi che si è rotto tutto, invece il figlio poi dopo un'ora esce dalla stanza, le cuffiette nelle orecchie, canta e dice mammina cosa mi fai di merenda? È vero, è proprio così, sono magnifici. Tra l'altro da questa settimana in libreria c'è proprio una collana di libri editi da Dea Planeta, sono 4 volumi per bambini e genitori e la collana si chiama proprio Piccole Grandi Sfide. Alberto, raccontacela rapidamente per vedere se può fare al caso nostro. Sono 4 libri pensati proprio per tenere in relazione i bambini con i loro genitori. C'è una storia molto divertente, poetica, illustrata molto bene, da leggere ai bambini, e poi c'è tutta una parte invece più educativa per i genitori e i temi sono proprio quelli della quotidianità. Mangiare, quindi la pappa, la nanna, è l'ora di andare a dormire, le regole e quindi perché in qualche modo bisogna avere un atteggiamento adulto, tranquillo, autorevole con i propri bambini che fanno fermo i capricci, e poi il tema per eccellenza che arriva un fratellino, cosa si fa quando arriva un fratellino. Però mi parli di sfide che riguardano i piccolissimi, ma c'è un detto, figli piccoli, figli grandi, problemi grandi, che ci farebbe pensare che alla fine mamma e papà non possono mai stare tranquilli. In fondo la ricerca dell'Università Cattolica di Lovagno lo sottolinea bene, per chi ha figli più grandi, naturalmente microfoni aperti all'800240024, anche perché non è detto che pur mettendo tutte le attenzioni quando sono piccole, le regole, le buone maniere, il dialogo, poi quando non ci sia la trasformazione dell'adolescente che è quasi, no, è inevitabile. Sì. Alberto, anche tu inizi ad avere degli adolescenti ne che ti sfidano. Poi quando è che un figlio si definisce grande? Probabilmente quando non ha veramente più bisogno di un genitore, però almeno per tutta la preadolescenza e l'adolescenza dobbiamo stare lì a fare il nostro mestiere, noi mamma e papà, e credo che in questo momento effettivamente siamo genitori, dico siamo perché ci sono anch'io in prima fila, non solo come professionista ma anche come papà, siamo un po' più affaticati, è tutto un po' più complesso perché le sfide evolutive dei nostri figli sono esattamente le stesse che avevamo noi 20-30 anni fa, ma il mondo in cui se le stanno giocando, il modo in cui se le stanno giocando è completamente cambiato. Allora abbiamo aperto una ampia finestra sulle sfide che i genitori si giocano ogni giorno, ma non ci sono, Alberto, solo sfide educative nella vita. A volte ci sono sfide enormi, ce le troviamo davanti, anzi ce le troviamo dentro alla nostra vita senza averle cercata, e quando arrivano restano con noi per sempre e ci mettono alla prova. Anche di questo parleremo. 800 24 00 24. Ci scrive Deborah e Nicoletta: potete salutare la piccola Sara che ha visto la luce ieri mattina? Bella. Ciao da Davide da Bassano del Grappa. Ma certo, ma salutiamo, certo. Sara, mille baci a Sara, alla sua mamma e al suo papà e a tutte le persone che la stanno festeggiando. Strade. Grazie. E poi di nuovo insieme. Cuore e denari. Io dimoro nell'oscurità, è vero, ma ci potete giurare che nemmeno mezzo dei miei giorni è perduto, visto che ogni giorno faccio fare piccoli passettini avanti alla mia gentile ospite, così che quel che riesce a fare oggi farà un poco meno domani e ancora meno dopodomani e così via progressivamente. Più o meno. Beh, non trovate esaltante tutto questo? Lei non è mai stata come me, vocata alla consapevolezza. Sempre così poco convinta delle sue possibilità, ma persuasa delle sue miserie. E continuiamo a parlare di sfide. Il brano che avete appena ascoltato è tratto dal libro Io e Lei, Confessioni della sclerosi multipla. In linea con noi abbiamo l'autrice Fiamma Satta, molto nota e amata giornalista, sì, e conduttrice. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Fiamma, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Fiamma, il tuo libro che racconta una sfida enorme che ti è capitata nella vita, la tua malattia cronica e progressiva, la sclerosi multipla, e tu hai raccontato questa sfida da un punto di vista completamente inedito, non parlando tu come Fiamma, come paziente, bensì facendo parlare lei, la tua malattia. Mi sembra un'idea magnifica, e ci spieghi da cosa è nata questa... Sì, infatti la Barbara Alberti, parlando del libro, lei si è innamorata tantissimo, è stata una delle prime a innamorarsi del libro, ha detto non è un libro, è una rivoluzione, perché viene cambiato completamente il punto di vista, non è la malata che racconta la malattia, come sempre avviene nella narrazione di questo genere, ma è la malattia che racconta una donna, una vicenda, una storia d'amore, perché il romanzo è una storia d'amore. È un libro che, sì, ha ragione Barbara, ma è un libro che va proprio dritto al cuore, a volte addirittura direi, Fiamma, proprio al centro dello stomaco. Ecco, perché è un linguaggio molto duro, sprezzante, sì, perché la malattia si presenta, perché è lei che parla, per quello, certo, che è tremenda, feroce, c'è molto dolore, sì. Ma si intravede tutta la tua forza. Del resto, quando ho cominciato a scriverlo, ci ho messo 5 mesi, dall'ottobre 2015 al marzo 2016, mi sono posta subito, visto che la protagonista, la voce narrante, è una malattia, questa malattia, come parla, come agisce, come pensa, come si comporta, esattamente come purtroppo sappiamo è sgradevolissima, è irriverente, è irrispettosa. Quindi il linguaggio doveva adeguarsi e quindi l'ho fatta parlare con una crudezza tale che il lettore a prima vista viene aggredito. Certo. Soprattutto lei detesta i suoi lettori, lei si rivolge ai lettori per confidarsi, ma questa cosa proprio non le va giù, detesta il suo uditorio miserrimo, come lo definisce, però si confida. E chiaramente il lettore si sente in un certo momento, ovviamente si sente spaesato, spiazzato, spaventato, però continuando la lettura il lettore capisce anche che anche la più feroce, la più cattiva, la più sgradevole delle malattie comunque ha i suoi punti deboli, ha i suoi limiti, ha le sue stanchezze. Come quelle che lei provoca, ce l'ha anche lei le stanchezze. Bisogna, è un modo, e tu dimostri che, come si scrive nel Trattato della Guerra, bisogna conoscere il nemico, quasi amarlo, sì, per sconfiggerlo, per tenerlo a bada, sì, insomma, per conviverci. Amarlo è una parola grossa, perché è difficilissimo, ma molto difficile amare una malattia così, però sicuramente conoscerlo e stimarlo. Estimarlo non vuol dire dire è meraviglioso, ma stimarlo vuol dire conoscerne le potenzialità e le fragilità, cioè i punti deboli e i punti di forza. E quindi accettare questa sfida. Ricordo sì. Il titolo del libro, Io e Lei, Fiamma, ti salutiamo con un altro breve estratto dal tuo libro. Che... Grazie. Un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio e se passi vieni a trovarci, Deborah e io siamo felici di vederti. Perfetto, grazie. Lo farò volentieri. Presto, grazie, ciao. A voi. Provateci voi a terrorizzare qualcuno soltanto al suono del vostro nome. Provateci. Non ci riuscirete mai. Io sì, sempre. Basta solo sentire quel gorgoglio di consonanti scivolose. Sclerosi multipla. Basta solo vederlo scritto il mio nome per provare un brivido. E io adoro percepirlo. E dopo Fiamma Satta torniamo insieme ad Alberto Pellai per parlare di sfide, a volte una malattia, a volte un figlio, a volte la perdita di un lavoro, a volte è così la vita ti costringe a fare dei conti e ad affrontare quello che ti mette davanti. Noi subito dopo il GR continuiamo e diamo una mano ai genitori. Tante volte proprio le sfide che ci lasciano e ci lanciano i nostri figli ci permettono un po' di ripensare e resettare anche qualcosa dentro di noi, Alberto. Sì, con un figlio è sempre così, tra l'altro proprio le sfide più complesse con cui un figlio ci confronta molte volte hanno dei legami profondi con sfide che noi abbiamo affrontato quando eravamo bambini o ragazzi con i genitori che abbiamo avuto, quindi è un po' proprio come fare l'intero giro del tabellone, ritornare alla partenza e essere sulla casella del via, però in una posizione completamente differente. E le sfide educative sono proprio delle occasioni incredibili un po' per rielaborare anche la nostra storia di vita e a volte per risistemare passaggi poco elaborati oppure zone di sofferenza in cui ci siamo persi e invece grazie a un figlio possiamo ritrovarci. Allora, lanciamo prima del GR un SOS che arriva da una mamma, una figlia, 15 anni, il cui motto è prima il piacere e poi il dovere, nonostante arrabbiature, divieti, punizioni, continua su questa linea. Studia col telefono accanto, non per i social, ma comunicando con i suoi compagni di classe attraverso messaggi, con qualche penalità nei risultati scolastici. Purtroppo, per motivi di lavoro, ci vediamo solo la sera, per cui non è semplice avere un controllo. Che si fa? Voi che fareste? Avete dei consigli, dei suggerimenti, degli SOS da lanciare? Noi siamo qua insieme ad Alberto Pellai, a Deborah, pronti anche per la seconda parte con la scuola di risparmio. Insomma, scuola dei genitori, scuola di risparmio, a cuore denari, vi aspettiamo qui. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. upmcchianciano.it. Cuore e denari. Siamo tornati insieme oggi, come ogni giovedì, scuola di risparmio, ma prima con Alberto Pellai andiamo a scuola di emozioni, emozioni che segnano sia la nostra crescita personale che professionale, quindi 800240024 per condividere con noi la sfida che state affrontando, che avete paura di affrontare con voi stessi, con i vostri figli, nella vostra vita, nel lavoro. Alberto, prima del GR abbiamo raccolto la richiesta di aiuto di una mamma, di una quindicenne, che ha come motto prima il piacere poi il dovere. Beh, è un classico degli adolescenti, no? È sana. Sì, è proprio, ecco, sana, sta facendo il suo mestiere, la figlia sta facendo il suo mestiere. Sarebbe un problema se ci dicesse prima il dovere e poi il piacere. Quello lo devono fare gli adulti, e dentro a questo tiro alla fune tra un genitore e il proprio figlio, quando i figli fanno il loro mestiere e puntano al piacere, i genitori devono fare proprio quel lavoro di rompiscatole. È incredibile, perché anche le neuroscienze dicono proprio che siccome il cervello dei nostri figli in quella fase della vita è così tanto concentrato sulla parte più emotiva, che ricerca piacere e divertimento, e la zona del pensiero, la zona cognitiva, è un po' immatura e rallentata, la funzione del genitore è proprio quella di fare il rompiscatole, di stare lì sulla scena, tenere forte la fune in mano quando loro tirano molto forte dall'altra parte. Abbiamo chiesto anche un aiuto ai nostri ascoltatori. Ci scrive Marco: con una scusa portai mia figlia in fabbrica, da quel giorno ha studiato, ora lavora felice, e ci saluta Alberto. La mamma della ragazza dice: io lavoro tutto il giorno, ci incontriamo solo la sera. Operativamente come ci si comporta? Dobbiamo sicuramente dare delle regole, fare rompiscatole, anche le neuroscienze ci invitano a prendere questo sentiero, questo percorso, che può essere difficile, un po' impopolare per i ragazzi, perché loro non amano avere genitori rompiscatole, si dovranno abituare, ma concretamente mi collegherei al consiglio che ha appena dato il nostro ascoltatore. Cioè, noi spesso anche nelle punizioni con i figli facciamo quell'intervento che toglie le loro cose preferite. Invece io direi: se non sei andato bene a scuola perché proprio te ne sei fregato, ok, allora quando io arrivo a casa la sera dovremo aggiungere delle responsabilità per la famiglia. In casa nostra va molto di moda stendere i panni, per esempio, siccome siamo tanti anche perché ed è tanta roba. Quindi, invece di fare poi quegli interventi che sembrano tolgo tutti il contro, cellulare, ecco, non aggiungo, ti do... aggiungo responsabilità. Quell'idea di l'ho portata in fabbrica, ha capito, no? Che cosa significa un po'. Che nella vita comunque c'è una parte di fatica che non può essere evitata. Allora, punizioni dove invece che entrare a gamba tesa togliere, entro a gamba tesa ma aggiungo. Guarda che vedo Carmelo, che finalmente è tornato, che sta sentendo con attenzione, sorride, sta pensando che cosa fare alle sue donne di casa. Certo, tutte donne le farà stirare, già me lo vedo, Vali. No, dai, Carmelo è carino, però sono piccole, ma già sta segnando. Senti Alberto, abbiamo parlato di bambini piccoli, quindi sfide grandi, ricordando anche la collana che è scritto proprio per i genitori con bambini piccoletti, ma non ci occupiamo solo dei figli. Abbiamo ascoltato la testimonianza di Fiamma, il suo libro Io e Lei, in cui racconta, proprio raccontata in prima persona dalla malattia, la malattia di cui soffre, la sclerosi multipla, a cui dico all'ascoltatore che ci ha scritto, abbiamo dedicato proprio delle puntate per questa malattia, per spiegarne le cause, i momenti a cui è arrivata la ricerca, per cui abbiamo anche un approfondimento dal punto di vista clinico, basta andare sulle nostre sul nostro archivio. Alberto, le sfide che uno non sceglie ma subisce sono le sfide più difficili da affrontare. Che aiuto possiamo dare, che aiuto puoi dare tu ai nostri ascoltatori che si trovano in una situazione di questo tipo? Ma direi che quelle sono le sfide legate al fatto che la vita accade, certe cose non le scegli, succedono. Uno degli errori più grandi è entrare nel circuito del rimuginio, della lamentosità e della percepita impotenza, quindi farsi vedere travolti e stravolti da quello che è successo e in qualche modo mollare proprio gli ormeggi, non avere più controllo della situazione. La cosa che realmente serve invece è spostarsi in una zona attiva di competenza, che automaticamente diventa anche potenza, e quindi spostarsi dal pensiero non posso fare più niente a che cosa posso fare io qui in questo momento di fronte a questa sfida. È l'unico modo per restare vivi e per riuscire ancora ad avere un senso di sé, un senso di controllo. Senti, noi abbiamo dedicato di recente proprio una puntata alla resilienza, tema che abbiamo affrontato tante volte insieme anche con te, a ricordare l'associazione Wondi Sono Io, ti ricordi Deborah, di cui assolutamente abbiamo parlato proprio con Alessandro, e che è nata proprio per realizzare una serie di attività in nome di Francesca, che ha insegnato, direi, a donne e a uomini come nella vita le difficoltà di varia natura possono essere affrontate possibilmente con il sorriso. Alberto. Sì, la resilienza è la nostra capacità di adattarci, diventare flessibile di fronte a situazioni che in realtà rischierebbero altrimenti di romperci. Non è, in parte è una cosa congenita, ci sono proprio persone che nascono con quella forza, con quella capacità. In parte è una cosa che invece possiamo apprendere e credo che sia fortemente correlata anche alla nostra capacità di sapere che non dobbiamo e non possiamo fare tutto da soli. Penso che in alcune situazioni saper chiedere aiuto e sentire che ci possiamo fidare e affidare a persone che sostengono il nostro cammino dentro la difficoltà probabilmente è quella zona che ci permette di svoltare. Molte persone soffrono tantissimo e di fronte alle sfide spesso poi si rompono perché cercano di fare tutto da soli e sentono quel chiedere aiuto come una sorta già di sconfitta in partenza. Alberto Fiamma ha scritto un libro, sono tante le persone che sempre di più che decidono di mettere nero su bianco la loro esperienza, un'esperienza, una sfida come quella che, di una malattia, che è, svolge una sorta di funzione terapeutica la scrittura. Possiamo consigliare anche una forma di diario, se non proprio il romanzo, che è per magari solo per pochi. Ma io, per me scrivere è sempre stato terapeutico oltre che un mestiere, e in effetti scrivere vuol dire raccontare se stessi a se stessi in una prospettiva autobiografica e quindi dare parola a tutto quel mondo interiore che spesso ci fa soffrire proprio perché entra nella zona del non detto. Nel momento in cui io scrivo posso dare parola a quello che sta succedendo, i fatti, ma anche a quello che sto sentendo, cioè le emozioni, e ai significati, cioè i pensieri che sono correlati a quello che sta succedendo, e quindi diventa un modo per integrare sul piano emotivo cognitivo delle esperienze che, lasciate nel silenzio, invece spesso diventano davvero difficili da gestire. Tra l'altro mi piace ricordare un po' un'anteprima, che proprio oggi verrà presentata una campagna che si chiama Voltati, guarda e ascolta. È una campagna che dà voce proprio alle storie delle donne con tumore al seno metastatico. È una campagna proprio nazionale di sensibilizzazione promossa da Pfizer con la fondazione IOM, che abbiamo avuto tante volte in trasmissione anche con Europa Donna, e quindi si chiederà alle donne di raccontare la loro storia, di caricarla su questo sito, e poi tre delle storie pervenute, secondo il parere di una giuria, saranno veicolate in forma scritta e orale. Ci saranno dei libricini ma anche dei passaggi radiofonici. Mi piace questo sforzo delle donne a raccontare, per parlare della loro esperienza da altre donne che magari non la stanno vivendo, ma proprio dalla loro forza possono imparare ad affrontare la vita con un altro piglio. Alberto, sì, questo... è vero che dagli errori degli altri non si impara, ma delle esperienze sì. Assolutamente, questo poi è proprio tutto il filone della medicina narrativa, così tanto in crescita in questo momento, che è di grandissimo valore sia perché è molto terapeutica per il paziente che scrive e narra se stesso dentro la sua storia, sia per tutte le persone che invece vivono un'esperienza di quel tipo, non l'hanno magari scritta e narrata, ma attraverso le narrazioni degli altri generano una sorta di gruppo di autoaiuto che, grazie a quelle parole scritte, in realtà permette poi di poter superare meglio la zona faticosa che si sta attraversando. Allora, intanto salutiamo Alberto, perché noi dobbiamo prepararci con i nostri quadernetti, della maestrina dalla penna rossa. Esatto, io mi porto il fiocchetto. Vi ricordiamo che da questa settimana c'è la bellissima serie di libri dedicata alle sfide educative dei più piccoli. Alberto, i titoli raccontano già quello che dovremmo affrontare: Non voglio la pappa, È ora del lettino, Uffo un fratellino, Voglio tutto, Sono un re. Insomma, bambini piccoli crescono e noi a fianco a loro. Allora, buona sfida a tutti. Buona sfida a tutti, buon Alberto Pellai a tutti. Allora, grazie Alberto, a presto, naturalmente sempre veramente molto interessante ascoltarti. Allora, ora è tempo di aprire la nostra pagina di denari, sono tante le notizie interessanti di questi giorni. Faccio una piccola premessa prima di appunto suonare la campanella della nostra lezione e quindi dare il via alla nostra scuola di risparmio. Avete letto sui giornali di questa mattina che ci sono due argomenti che noi abbiamo seguito nel tempo e per i quali ci sono adesso delle novità. Per cui, per non buttarci in queste notizie di cronaca in maniera superficiale, abbiamo deciso di fare un po' un percorso un po' più costruttivo a partire dai prossimi giorni. La prima notizia riguarda le novità per i lavoratori autonomi, via libera al Jobs Act per le partite IVA. Nel provvedimento che ha avuto il via libera ieri dal Senato c'è anche la cornice legislativa definitiva per lo smart working e il lavoro agile. E poi c'è l'altra grande novità a cui oggi i giornali dedicano un enorme risalto, cioè l'aggiornamento dei criteri per l'assegno divorzile, il contributo economico dovuto in alcuni casi all'ex coniuge dopo lo scioglimento definitivo o la cessazione appunto degli effetti civili del matrimonio. Dalla Cassazione, come sapete perché se ne è parlato molto in queste ore, arrivano nuovi parametri di riferimento per il riconoscimento dell'assegno, un incubo di molti celebri ex coniugi in particolare, visto che si trattava molto spesso anche di somme a molti zeri. Viene superato il precedente consolidato orientamento che collegava la misura dell'assegno al parametro del tenore di vita matrimoniale. La Cassazione dice adesso il parametro dovrà essere l'autosufficienza economica. Noi su tutti questi argomenti ci torneremo a partire da lunedì prossimo, per cui pronti naturalmente anche a meditare sulle domande che ci volete fare su queste importanti novità arrivate proprio nelle ultime ore. Però oggi è giovedì, come sapete bene è tempo di sederci sui banchi della nostra scuola di risparmio, e allora di cosa parliamo questa mattina? Intanto ricordiamo quello che è successo dopo l'esito elettorale in Francia, che ha confermato le aspettative e i mercati finanziari hanno tirato un sospiro di sollievo, sono rimasti ovviamente favorevolmente colpiti dall'esito favorevole al movimento europeista di Emmanuel Macron. In questi giorni stiamo assistendo in borsa dei movimenti un po' più cauti legati al consolidamento dei rialzi delle sedute precedenti, però l'attualità finanziaria è ancora fortemente influenzata dalla situazione politica. C'è però la sensazione generale che a questo punto, non solo per il risultato elettorale francese ma anche per quelli precedenti olandese ed austriaco, il clima politico sia un po' più disteso e di conseguenza anche quello economico finanziario. I dati macroeconomici continuano a supportare uno scenario positivo per l'economia reale, peraltro proprio in questi minuti è in corso di diffusione il rapporto della Commissione Europea che sta aggiornando le stime economiche di appunto dell'Eurozona. Sono le stime economiche di primavera della Commissione Europea. Fra un po' magari questi dati ve li darò al volo e li commenteremo con la nostra ospite di questa mattina. Direi che di temi di cui parlare davvero ce ne sono molti, ma ci sono anche molte incognite per i risparmiatori che naturalmente provano anche a capire cosa potrà succedere prossimamente, se è il caso magari di cambiare qualche strategia nella gestione delle proprie scelte di risparmio. E allora siamo pronti a partire. Investire informati. Ci sono naturalmente sempre le politiche monetarie sotto osservazione. A giugno arriva un nuovo aumento dei tassi di interesse americani, ci sono i record di Wall Street e poi chissà se questo sell in May and go away arriva o no questo mese. Perché ridi? Sto osservando un po' Carmele, un po' la nostra telecamerina che ci guarda. Allora ho fatto un sorriso continuate a seguirci, siamo in diretta a Facebook. I nostri ascoltatori, perché tra poco presenterai la tua ospite. Brava, e saranno particolarmente contenti i nostri ospiti di un graditissimo ritorno a Cuore Denaro Investire Informati, quello di Monica Defend, strategist di Pioneer Investment. Benvenuta. Grazie a tutti, bentrovati. Peraltro volevo affrontare con lei una cosa, ma me l'ero lasciata come domanda di riserva, ma in realtà la dico subito, Monica tutte le volte ci racconta sempre di esperienze molto interessanti che fa in giro per il mondo, va ai meeting del Fondo Monetario Internazionale, insomma tante cose interessanti per lavoro, perché poi ci racconta che questi meeting iniziano alle 7 del mattino e si concludono in tarda serata, non è che ci sia molto tempo per farsi la gita turistica appunto a Washington o altre località. Esperienze recenti interessanti, dirette. Francoforte settimana scorsa da Draghi, a pranzo con Draghi, ha preso il caffè no, alla banca centrale e poi alla banca centrale tedesca. Ecco, a parlare di che cosa, invitata da chi, se si può sapere? No. Niente, no, qua no, c'è... A parlare di politica monetaria, ovviamente. Certamente, e di luogo prospettive per l'Eurozona. Assolutamente, deputato appunto per discutere di questi argomenti. Hai visto, noi te facciamo proprio una vita quasi monacale, direi. Andiamo fino a Roma e torniamo indietro. No, adesso andiamo anche a Rimini. Andiamo dai, a Rimini, a Litiforum, andiamo a Trento al Festival dell'Economia, andremo a Bologna. Tu vai a Bologna, io no. Esatto, quindi insomma ce ne abbiamo anche noi di trasferte. Che fare con questo fermento sui mercati? Monica defende come investire per proteggere il capitale, magari provare a testare nuove opportunità di investimento e rendimento. Questa è la domanda che probabilmente si fanno i nostri ascoltatori, ma cominciamo con lei invece sul tema dello scenario politico, no? Che viene ancora valutato come il principale fattore di potenziale rischio per lo sviluppo dei mercati e di sicuro i prossimi mesi si preannunciano impegnativi. Insomma, dopo Macron, a che cosa dobbiamo guardare? Dopo Macron l'agenda geopolitica rimane comunque densa, perché ci sono le elezioni nel Regno Unito, ci sono comunque le elezioni in Francia con il Parlamento, ci potrebbero essere le elezioni in Italia, speriamo 2018, sinceramente dal punto di vista dei mercati, quindi, e le elezioni in Germania, quindi ci sono ancora degli appuntamenti molto molto importanti che contribuiranno a scandire il ritmo dei mercati. Perché? Perché comunque i mercati rimangono estremamente influenzati dai flussi, quindi tutti i movimenti che noi abbiamo visto sia sull'azionario che sull'obbligazionario sono per lo più determinati da riposizionamenti di investitori che erano usciti e stanno rientrando, piuttosto che sono usciti e fuori sono rimasti, per esempio nel mercato obbligazionario italiano. Quindi non sono mercati semplici, perché a noi piace avere una ottica di lungo termine dove la fa da padrone la crescita degli utili aziendali, la crescita economica, l'inflazione, la disoccupazione. Purtroppo però si tratta ancora di rischio e sentimento, e quindi appetito per il rischio da parte degli investitori, e questi movimenti più o meno repertini che danno volatilità sui mercati. Molti suoi colleghi mi hanno però raccontato, forse lo notate anche voi, che è in ogni caso iniziata questa forte rotazione geografica che sta spostando molti flussi di liquidità dagli Stati Uniti all'Europa, anche se in realtà continuiamo a raccontare di record su record a Wall Street, e tutto sommato dalla cronaca noi poi da comuni mortali non possiamo appunto confermare lo stesso. In realtà anche voi invece registrate lo stesso andamento. Si sta cominciando a privilegiare con insistenza il mercato azionario europeo, perché era comunque pesantemente sottovalutato. Esatto, ma diciamo che a novembre, con l'elezione di Trump, si sono create delle grossissime aspettative da parte del mercato su quello che Trump avrebbe potuto consegnare. Secondo me già a fine gennaio, quando lui è stato ufficialmente investito della presidenza, il mercato ha cominciato a dire: beh, insomma, tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, vediamo che cosa succede. Quindi diciamo che un'economia come quella americana, che comunque è un'economia che cresce più delle altre, con un ciclo di utili aziendale positivo, ma verso una fase ormai matura, è diciamo scontato dai prezzi. Quello che ci lasciava cauti sull'Europa, dove noi vedevamo del potenziale, ma il prezzo del rischio era superiore a quello che poteva essere il beneficio, ci ha tenuti cauti a gennaio. Verso marzo abbiamo ricominciato a pensare alle nostre posizioni e abbiamo dato una preferenza all'Europa verso l'America, sempre per quanto riguarda il comparto azionario, perché pensiamo che in Europa ci sia una crescita degli utili buona, intorno al 9-10%, quindi sono dati positivi, e la fase del ciclo non è così matura. Restano però dei rischi, per cui l'esposizione all'azionario europeo era comunque ed è comunque accompagnata a coperture per il rischio su queste posizioni rischiose. Certo. Intanto gli strumenti obbligazionari hanno sempre meno fascino, le obbligazioni hanno poco potenziale, maggiori rischi prospettici, almeno questo è il consensus generale. Perché? Ma è ovunque così. Ieri il bot annuale messo in asta dal Tesoro italiano ha registrato l'ennesimo nuovo record negativo, meno 0,30-40%. Fra un po' avremo l'esito delle altre aste che erano previste per questa mattina. Direi che allora ci prendiamo un secondo di pausa. Vi racconto cosa succede in borsa in questa giornata, dove stanno scoppiettando di ottima salute i titoli del settore bancario, e poi ritorniamo appunto con i nostri approfondimenti. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme, è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Se volete me ne vado, se volete fare tra di voi. Stiamo parlando un po' di donne tra donne. Esatto, di questo tema. Ragazzi, che attente. Avrà una portata dirompente tra le coppie vecchie, quelle che stanno divorziando, insomma, questa storia dell'assegno divorzile. Ecco perché noi vogliamo affrontarlo bene a partire dai prossimi giorni con numerosi esperti. Intanto avete sentito questa canzoncina, questa colonna sonora indiana, perché fra un po' ci piacerebbe fare anche qualche ragionamento sui mercati emergenti, visto che in questo contesto le strategie di investimento delle società sono diverse, le opportunità a livello mondiale sono infinite e l'India, insomma un po' trascurata negli anni recenti, in realtà si sta riscoprendo anche per le numerose iniziative anti-evasione fiscale, anticorruzione che si stanno prendendo dal governo appunto di quell'area, quindi anche per questi motivi sta ritornando ad essere una zona degna di interesse. Però prima, dottoressa Defende, di andare in India, vorrei ritornare un attimo con qualche ragionamento sul mercato americano, che ogni giorno ci racconta di un record dietro l'altro. Ieri sera nuovo per il Nasdaq, l'indice della tecnologia. A questo punto però direi che è ora di cominciare a muoversi con un po' di cautela. Va bene affidarsi ad un gestore professionale se uno vuole comunque puntare su questa economia che gode di ottima salute, occupazione a pieno regime. E però, insomma, il grafico degli indici comincia ad essere un po' troppo verticale. No, decisamente quello che è il livello, io faccio riferimento allo Standard & Poor's 500, quindi alle large cap, che è un pochino meno rischioso della tecnologia. Della tecnologia. E sì, credo che oramai sia la crescita sia tutta nei prezzi, quindi noi abbiamo una distorsione positiva, se vogliamo, sul mercato azionario americano, perché andare in sottopeso è una cosa che francamente facciamo un po' fatica a fare, ma non è sicuramente nella posizione top delle nostre scelte di investimento al momento. Per cui cautela, maneggiamo con cura questo mercato. In realtà ci eravamo lasciati con la considerazione sui titoli di Stato a rendimento zero prima della nostra pausa, ed è arrivata una domanda di un ascoltatore. Nicoletta, tu me la monitoravi su WhatsApp. Quella dei titoli di Stato, perché sono sempre molto ambiti nonostante gli interessi negativi. Perché assicurazioni, banche, insomma investitori istituzionali, per esigenze di tesoreria in genere, mi raccontano gli esperti, devono comunque avere delle posizioni su questi asset. Però certo, la domanda è pertinente. È vero anche che il tipico investitore italiano ha questa distorsione verso il titolo di Stato, nonostante tutto. Quindi rimane nel cuore degli italiani una potenzialità di investimento nell'obbligazionario, nei BDP, nonostante non sia appetibile da un punto di vista finanziario. Ciò detto, penso che la politica monetaria rimanga accomodante. Credo che Draghi sia stato molto molto chiaro, non da ultimo ieri sul fatto che in Europa sì, le cose vanno bene, ma dobbiamo stare tutti bene. E l'inflazione non è ancora lì dove dovrebbe essere. In particolare manca quella inflazione sana da crescita salariale. E le contrattazioni salariali si sono chiuse all'insegna di mantenere i posti di lavoro, quindi sicurezza del posto di lavoro, piuttosto che aumento dei salari reali. Quindi non credo che vedremo delle spinte inflazionistiche a breve. Quindi la Banca Centrale... C'è anche il risveglio recente che c'è stato, è un fuoco di paglia, non è niente di consistente. È legato ad altre dinamiche che non sono lì per rimanere, per far aumentare l'inflazione in maniera strutturale, e sugli obiettivi che la banca centrale si è posta. E fin tanto che la banca centrale rimarrà accomodante, se tanto serve a preservare la stabilità dei mercati finanziari, dall'altra ha ancora i rendimenti ai livelli che stiamo vedendo. Certo. La questione politica europea, secondo lei, ha finito di influenzare l'andamento del mercato obbligazionario, degli spread? Per esempio, dopo l'elezione di Macron, appunto, il differenziale fra Italia e Germania si era riallargato intorno ai 180 punti, adesso un po' più tranquillo, ma insomma questo livello ci racconta qualcosa di significativo o è fisiologico? Ma io penso che per quanto riguarda lo spread tra il BTP e il Bund sia al momento intorno ai 180-210, possiamo aspettarci questo tipo di corridoio, proprio perché le dinamiche di domanda-offerta e il posizionamento degli investitori che sono usciti prima del referendum e non sono ancora rientrati consentiranno allo spread di rimanere a quei livelli. Ma allora abbiamo detto che l'agenda politica è molto importante. Quali sono le classi di investimento che tendono a reagire di più a queste notizie? Le valute e poi il reddito fisso. Quindi io mi aspetto che comunque resteranno sensibili, dati in particolare sui periferici, al calendario e alle notizie di natura geopolitica che usciranno. Per quello che riguarda invece l'Europa del mercato azionario, visto che sta tornando ad essere nell'orbita dell'interesse dei grandi investitori, se dovessimo così un po' scattare una fotografia, cosa va bene e cosa no, in Europa in termini di opportunità di investimento, settori che privilegiate, che vanno visti con così un occhio di riguardo perché nascondono le maggiori potenzialità? Quelli da acquistare ancora un pochino lontano, la crisi finanziaria ancora deve terminare appunto di manifestare i suoi effetti. Ma allora, come dicevamo prima, noi abbiamo delle prospettive di crescita sugli utili, quindi dei buoni fondamentali sulle azioni europee che ci fanno essere positivi sull'Europa nel suo complesso. Okay. Questo per chi può fare lavoro come il mio, quindi fare scelte sulle grandi classi di investimento. Poi parlando con chi invece deve scegliere all'interno dei vari settori, quindi con i nostri specialisti sul desk dell'azionario europeo, loro più che scelte settoriali al momento proprio fanno selezione di titoli. Sì, proprio perché bisogna essere stock picking. Esatto, proprio perché bisogna essere cauti. Quindi mi viene da pensare a settori come i finanziari, bancari di cui parlavamo prima, piuttosto che le infrastrutture. Se guardiamo all'agenda di Macron, lui ha in mente tre cose, quindi riduzione del costo del lavoro, liberalizzazione del mercato del lavoro, digitalizzazione della pubblica amministrazione, spesa per infrastrutture, che richiama tanto anche la Germania. Esatto, e anche un po' Trump comunque. Sì, è il grande cavallo di battaglia di tutti. Noi l'abbiamo chiamata la reflation trade, l'hanno chiamata. Ah, ecco, per chi avesse letto questo concetto sui giornali e non avesse capito bene di che cosa si tratta, allora ce lo racconta. Si tratta appunto di fare delle politiche di natura fiscale volte a incoraggiare la crescita e a supportare l'inflazione, che è quello che stanno facendo o che vorrebbero fare un po' tutti, perché invece manca nella mente di tutti si fa fatica a implementare, ma anche in quella di Trump. Il problema di Trump è che ancora non è riuscito a implementare quello che ha promesso in campagna. È che ogni tanto si scontra un po' con i funzionari del suo staff e poi si è messo in testa di cancellare l'Obamacare. In realtà ha delle priorità di lungo termine, dopodiché giorno dopo giorno affronta altri problemi che gli fanno ritardare l'agenda. Insomma, però noi siamo qua a vedere cosa farà di buono prossimamente. Allora, prima di parlare dei mercati emergenti, guarda, mi tolgo di torno il traffico e poi vado in Cina, in India con Monica Defende a te. Anche a me. Ci vuoi venire pure dai, tu? Dai, portatemi. No, io con sto Alberto zitta, Pellai, ma sento. Che traduce tutti i suoi libri anche in Cina, proprio una cosa interessante. Quindi mi fai andare proprio con le valigette dei libri. Possiamo fare io vengo cuore denari da turista, no, possiamo non fare... lavoro. Non vuoi fare cuore denari in Cina? Dai, pensaci su un attimo, poi mi dici. Cuore e denari. Allora, volevo parlare un po' anche di mercati emergenti, sono una grande passione di Monica Defende, ci sono tante opportunità di investimento in giro per il mondo, naturalmente se si fa una buona... Scusami. Stavo leggendo i messaggi che stanno arrivando, diversificazione. Dai, questa parola allora, ormai l'ho imparata anch'io. Per chi anch'io. Ha un po' di pazienza ed è anche la capacità di tollerare anche momenti di turbolenza che fanno andare il proprio portafoglio un pochino sulle montagne russe, in realtà di occasioni in giro per il mondo ce ne sono, non siamo tutti quanti solo cinocentrici, di opportunità ce ne sono. Allora, intanto un piccolo ragionamento sulla Cina, dottoressa Defend, che è frenata un po' po' in termini di PIL negli ultimi tempi, ma in realtà là c'è un'indicazione molto chiara su quelle che devono essere le misure appunto della crescita e le percentuali della crescita di quell'economia. Siamo al 6,9%, percentuali che se vedessimo noi saremmo già tutti ricchi sfondati qua in Italia. E però insomma questa è un'economia che sta continuando a lavorare sul cambiamento del proprio modello di sviluppo, ancora probabilmente non ha terminato di fare tutto quello che deve fare, ma bisogna starci lì in che misura? Ma noi sulla Cina siamo positivi, è proprio una di quelle belle storie da libro di macroeconomia in cui hai le riforme strutturali, la politica monetaria. Certo, non è un mercato liberissimo, quindi in effetti questo contrasta un po' con i libri di macroeconomia, ma sicuramente si stanno muovendo in una direzione corretta dal punto di vista delle riforme strutturali. Tra l'altro poi loro vanno a elezioni anche loro verso la fine dell'anno, quindi non ci aspettiamo dei grossi cambiamenti, ma un consolidamento. Già me lo immagino, dopo la Germania cominceremo tutti a dire adesso mercati in attesa delle elezioni cinesi. Esatto, e quindi per esempio noi, per non prenderci il cosiddetto rischio direzionale sulla Cina, stiamo facendo un tipo di scommessa, consentitemi il termine, sulla Cina nuova verso la Cina vecchia, quindi la Cina delle banche, delle imprese in mano allo Stato, proprio per enfatizzare quest'idea della voglia e del successo di cambiare il modello di crescita economica di un paese. Poi prima parlavamo dell'India. L'India è un altro paese in cui siamo investiti e guardiamo in maniera costruttiva. Fino a poco tempo fa molto è stato fatto in India dal governatore della banca centrale, che era una vera rockstar, proprio una persona illuminata secondo me, che è riuscita a lavorare insieme in maniera sinergica con la politica fiscale per fare crescere il paese nella direzione in cui sta andando. Quindi ha fatto già molto la Cina. Noi eravamo investiti da un paio d'anni, adesso ci stiamo prendendo una pausa di riflessione aspettando fattori tecnici di ricorrezione. Abbiamo spostato, come dire, le soglie di potenziali prese di profitto. Ma questa notizia della quale si è parlato tantissimo da novembre in avanti, questa secondo la quale appunto il primo ministro indiano Narendra Modi aveva annunciato l'8 novembre, è successo, che avrebbe ritirato nel giro di pochissimo tutte le banconote da 500 e 1000 rupie, ritirate dalla circolazione con effetto immediato per combattere appunto proprio l'evasione fiscale, e quindi si parte con l'eliminazione del contante in circolazione. Ha avuto un effetto questa notizia sui mercati, oppure è più stato un clamore mediatico che altro? Ha avuto un effetto sui mercati all'inizio, poi perché si temeva un ritorno negativo sulla crescita dell'economia indiana, cosa che di fatto non c'è stata. Per cui, sì, perché là c'è tutto il tema del microcredito, delle transazioni in contanti, che naturalmente la sono microtransazioni, sì, quelle che vengono fatte. E quindi il paese ha continuato a crescere e di conseguenza anche i mercati. Subito abbassato e spento il clamore intorno a questa notizia. Vi ho dato tutti gli elementi per il mio domandone, vediamo se in 5 minuti raccogliamo qualche telefonata. Faccio scegliere su due argomenti, la busta A o la busta B. Mi è piaciuta questa. Allora, vediamo se si ricorda i nostri amici quali sono i limiti per l'uso del denaro contante in Italia. E busta questa, numero A. Esatto. Nella B invece ci metto la seconda domanda: quanto vale una rupia? Questa è più difficile, però li faccio sbizzarrire oggi. Se vogliono guadagnarsi i nostri libri, devono studiare anche un po' studiare tutto Monica Defend per tutti quanti. Per cui 800 24 00 24 per questa sfida. Cina ed India, dove, in quale altro posto andiamo? Anche le politiche di Trump hanno turbato molte aree emergenti. Abbiamo visto quello che è successo sul peso messicano subito dopo la sua designazione, abbiamo la forte crisi venezuelana. Dove altro dobbiamo andare per avere delle opportunità di investimento che però non facciano andare il nostro denaro troppo sulle montagne russe? Allora, i canali di investimento sono tre: le azioni, le obbligazioni e le valute. Per quanto riguarda le azioni, noi abbiamo una preferenza per l'area asiatica, proprio perché ha delle prospettive di crescita supportate da riforme strutturali che ci fanno pensare possano portare valore. Per quanto riguarda le valute, che come dicevamo prima sono le classi di investimento che tendono ad essere più reattive alle notizie di natura geopolitica, lì non abbiamo preso delle scommesse direzionali, ma abbiamo costruito un paniere proprio per cercare di tradurre quello che poteva essere un effetto Trump sulle politiche commerciali, e sovrapposiamo quindi delle valute legate alle materie prime, il real brasiliano, il rublo, Messico, India, e sottopesiamo invece quelle legate a paesi legati all'attività manifatturiera come il Taiwan o il yuan coreano. Quindi preferiamo le valute al momento al reddito fisso, perché danno più possibilità di reddito, ma in maniera diversificata, quindi attraverso dei panieri. Intanto le faccio commentare in diretta l'esito dell'asta del BTP triennale. Al momento abbiamo solo questa, il tesoro ha collocato quasi 2 miliardi e mezzo di euro, il rendimento è ancora in calo allo 0,37%. Cosa vuol dire sottoscrivere un BTP a 3 anni che rende questo livello? Ma diciamo che la parte monetaria, quindi la parte più a breve della curva, è quella che viene meno influenzata dai rischi politici, geopolitici, ed è quella che è più influenzata dall'attività di Draghi, quindi molto probabilmente è quello che ora c'è rende, questo effetto. Vedremo poi le altre, le previsioni di primavera della Commissione europea, che lo stesso sono state pubblicate questa mattina. Ah no, intanto abbiamo anche il BTP settennale, in questo caso collocati 2,25 miliardi, rendimento all'1,65%. Commento flash, stesse indicazioni di prima? Allora, vediamo se abbiamo intanto le risposte dei nostri ascoltatori, appunto, ai domandoni. Lorenzo da Milano, benvenuto. Qual è la soglia di utilizzo del contante in Italia? Sì, buongiorno, grazie. Complimenti per il programma. La soglia sono 3.000 euro modificati da Renzi. Bravo, con la manovra di stabilità del 2016, appunto, sono entrate in vigore queste norme. Sulla rupia adesso arriveranno anche altri ascoltatori, però li vedo che sono pronti, insomma stanno studiando anche l'economia indiana. Dottoressa Defende, il nostro programma sta andando verso il termine. Quali altri temi dobbiamo tenere sotto osservazione che magari voi state monitorando? Sono un po' lì silenti, ma potrebbero costituire un fattore sorpresa per i risparmiatori, oppure insomma quest'anno tutto sommato dopo Macron ci siamo tranquillizzati e non dobbiamo aspettarci grossi scossoni di nessun tipo. Sally May and Go Away, lei ci crede intanto? Personalmente no. Non mi è mai piaciuta, ma perché va contro il mio DNA. Io sono più da economia una strutturata reale, strutturali, quindi faccio fatica a prendere quel tipo di decisione. No, poi in decisione. Realtà abbiamo ricostruito anche le statistiche, non è che sempre si sia verificato. C'è un effetto stacco dei dividendi, molte società concentrano proprio in questo periodo la distribuzione della cedola, quello vuol dire anche qualcosa sul calo temporaneo di molti indici, quindi c'è anche questo tema. C'è anche Stefano, voglio dire. In che senso? Da Monza, Brianza, Stefano, per le rupie. Stefano, la rupia. Pronto? Buongiorno, veloce, grazie. Sì. Quanto vale una rupia? Sì, allora ci vogliono 70 rupie per fare un euro. Allora, aspetti che adesso me la vado a ricercare, non me lo ricordo, ma mi pare che più o meno circa, sia... dai, col circa... No, guardi, è la parola giusta, Stefano, con circa il libro arriva a casa. 70,21, grazie. Circa, era perfetto. Il cambio peraltro di ieri pomeriggio. Grazie Monica Defende per essere stata con noi. Grazie. La rilasciamo alle sue sudate carte, ai suoi studi. Noi invece torniamo domani, come tutti i giorni. Direi di augurare ai nostri ascoltatori una buona giornata. Ma sì, pensateci, dai, pensateci, aspettateci a domani. A presto.